Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Scuole che a causa dei tagli nei finanziamenti fanno fatica a coprire buchi d'organico, a sostituire un insegnante malato, tante volte ne parliamo qui ad Obbligo di Frequenza. Ebbene, i tagli dei finanziamenti all'istruzione in questi giorni stanno agitando un altro segmento del mondo della scuola, di cui non parliamo molto spesso in questa trasmissione. Sono le scuole paritarie, in larga maggioranza cattoliche. Questi i numeri. Dal 2000 vengono erogati ogni anno 534 milioni di euro alle scuole paritarie, che contano circa 1 milione di ragazzi. Questo significa che ogni studente riceve 530 euro all'anno. La scuola pubblica riceve invece dallo Stato 44 milioni di euro per un totale di 7 milioni e 850 mila ragazzi, cioè 6.200 euro a studente. Quest'anno però la scure di Tremonti avrebbe dovuto abbattersi anche sulle scuole cattoliche, con un taglio ai finanziamenti del 47%, non poca cosa dunque. Le scuole paritarie hanno protestato e Tremonti ha fatto marcia indietro, sembra. I soldi, ha fatto sapere, verranno presi dai fondi a disposizione dello stesso Ministero dell'Economia. Allarme rientrato dunque? Maria Grazia Colombo, presidente dell'Associazione dei genitori delle scuole cattoliche. Decisamente il fatto di questa dell'uscita di questa nota del ministro ci rassicura da un certo punto di vista, anche perché comunque sappiamo che il ministro è un ministro di parola, per cui senz'altro guardiamo questa rassicurazione con molto interesse. Però devo dire purtroppo che non, questa volta non ci accontentiamo. Ecco, però il tempo delle vacche grasse è finito per tutti, come sappiamo le scuole statali cascano a pezzi, non hanno soldi neanche per i supplenti, quindi insomma bisogna tirare la cinghia un po' tutti, no? Dice il governo, perché non dovreste farlo anche voi? Esatto, però tutti nella proporzione corretta, perché andare a tagliare proprio a chi ti fa risparmiare mi sembra veramente un suicidio, perché noi avremo un taglio del 47% sui 530 euro a ragazzo, avremo il 47% di taglio. La scuola statale avrebbe il 4% già su un'erogazione. Allora io ho lanciato un appello ai genitori di scuola statale: andiamo a vedere insieme come vengono spesi i soldi nella scuola statale. Questo secondo me è quello che un governo attento deve fare, perché ci sono dei risparmi da fare, delle ottimizzazioni più che dei risparmi che devono venire avanti con un'autonomia della scuola statale, anche perché tutti gli studenti che lasciano la scuola paritaria, quindi le scuole cattoliche, si ributtano ovviamente sulle scuole statali con un costo in aggravio alle casse statali. Esatto, teniamo conto che nella scuola paritaria noi abbiamo tutto il grosso servizio delle scuole materne, che sono nella stragrande maggioranza scuole paritarie, perché scuole materne statali in Italia ne abbiamo pochissime, per cui il momento in cui, e qui i finanziamenti riguardano anche loro, ci sono dentro anche loro, per cui il momento in cui queste scuole dovessero chiudere sarebbe veramente un disastro per l'economia del nostro paese. Non ci basterebbe molto meno di quanto viene erogato per le scuole statali, tanto abbiamo dimostrato che le scuole paritarie sanno gestire i fondi in modo molto più oculato. Non è giusto che stiamo male tutti, andiamo a vedere dove effettivamente, come i soldi, per cui un discorso di impiego adeguato delle risorse. Certo, non è compito dell'AGESC, è compito di un governo. Vai male a scuola e credi di non essere all'altezza, ma in questo mondo che non ci consola. Vai male a scuola, niente giochi della gioventù. Lo prevede un disegno di legge del senatore leghista Giovanni Torri, che parte da un assunto importantissimo e che condividiamo in pieno. La scuola e i nostri ragazzi hanno bisogno di più sport. E nasce per il fatto che io all'epoca, insomma, ho 50 anni, tanti anni fa, avevo un buon ricordo dei giochi della gioventù. Com'era? Era bravo? No, scendere sì, grazie anche addirittura a dei mezzi che ci fornivano loro, tipo gli sci, che erano basilari. E che oggi ce li sogniamo, delle cose del genere a scuola con questi chiari di luna economici, direi che ce li sogniamo proprio. La cosa nasce anche da un ragionamento semplice: il fatto di poter mandare due figli al pomeriggio a fare dello sport in un centro specializzato della federazione di qualsiasi tipologia. Costa un sacco di quattrini. Costa molti soldi, per cui le famiglie a mandare due figli a fare sport per due pomeriggi alla settimana gli costa mezza rata del mutuo. E motivo poi, di più per farglielo fare a scuola, però. Per farglielo fare a scuola e per farlo fare a tutti. Sarebbe, esatto, non sarebbe tanto nella scuola, perché il disegno di legge prevede di farlo con l'aiuto della scuola, che non è durante le ore scolastiche, ma nei pomeriggi. Quindi non la sua idea è facciamo più ginnastica a scuola, più attività sportiva a scuola dopo la scuola, quindi in orario non scolastico. Bravissima. Perché cioè, farlo fuori dall'ambiente scolastico costa un sacco di soldi e un sacco di famiglie non se lo possono permettere. Detto questo, però, che cosa c'entra il fatto che lo debbano fare solo i più bravi? Quando io ho fatto il disegno di legge, si era deciso in parte nella fase della discussione, ma cerchiamo di fare una cosa che renda anche il discorso meritocratico. Le fasi finali, soprattutto, che ci possono andare quelli che effettivamente vanno bene a scuola, sono quelli che almeno hanno, si diceva, almeno tutti i sei, no? Chiaramente poi l'abbiamo ragionato tra di noi con degli esperti, eccetera, detto, non è che possiamo veramente applicare il modello college americano. Vediamo però di mandare almeno nelle fasi finali, che sono le più importanti e le più meritocratiche, almeno quelli che non hanno mica tutte le insufficienze. Insomma, i ragazzi quando vanno a partecipare ai giochi della gioventù rappresentano anche un po' la propria scuola, e quindi per rappresentare la propria scuola non devono farlo solo con le abilità sportive, ma anche con un minimo di competenze scolastiche. Senatore Torri, mi permetta questa domanda, ma chi li caccia fuori i soldi per queste attività sportive? Non mi sembra proprio il momento. No, le faccio l'esempio. Io so che nella scuola vengono dati in maniera normale da tantissimi anni fondi che riguardano anche vari tipi di attività alternative. Senatore, questi soldi sono belli che finiti già nelle scuole, non ce l'ha più nessuno quei soldi lì. Non so se lei si rende conto che non hanno neanche i soldi per sostituire gli insegnanti che sono malati. No, ma le spiego, non passa mica dalle scuole, Lei deve sapere che noi diamo dei soldi al CONI tramite le giocate del Totocalcio, giusto? Siccome il CONI quando percepisce i soldi li ridistribuisce alle varie federazioni, è giusto che le quote che il CONI riceve dallo Stato e ridistribuisce alle federazioni stabilisca che nella base del 10-15% della quota pro federazione venga attivata per i nuovi giochi della gioventù. Senatore Torri, io la ringrazio moltissimo e soprattutto tra un po' ci risentiremo, perché spero che lei abbia ragione. Io non ci credo, questi soldi non si troveranno, secondo me, perché non si troveranno. Però io sono un inguaribile ottimista, le famiglie le auguro di farlo. Capiscono cosa dico io. Ci risentiremo più là e vedremo chi purtroppo ha drammaticamente ragione fra me e lei. A risentirla. Io spero di vincerla io, E anche noi speriamo naturalmente che il senatore vinca la scommessa, perché significherebbe più soldi per lo sport e la scuola e dunque per i nostri ragazzi. Soldi che si possono trovare anche secondo Paolo Cambone, che rappresenta la Federazione degli Insegnanti di Educazione Fisica. Ecco come. Utilizzare al meglio quelle risorse che oggi sono disponibili, che sono poche ma ci sono, che permettono di organizzare i giochi sportivi studenteschi, i giochi della gioventù, in alcune realtà vedono anche l'intervento di alcuni enti locali, ma sono tutte cose che si muovono parallelamente e non secondo un disegno unitario. Un disegno unitario, quale può essere la proposta, quello contenuto nella proposta del disegno di legge di Torri, sicuramente razionalizzerebbe le risorse disponibili. Non ci dimentichiamo che una delle voci maggiori di costo della pubblica amministrazione, soprattutto a livello delle regioni, è la sanità. Ecco, quindi la scuola ha comunque bisogno di più sport, ce ne sarebbe forse anche la possibilità, eccetera, eccetera, e sarebbe un ottimo investimento per il futuro. Detto questo, lo sport solo per i più bravi o no? Assolutamente no. Cerco di rifarmi proprio alle parole del senatore Torri, che nella presentazione del disegno di legge cita documenti dell'Unione Europea che spingono su misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole. È accessibile a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno, sia dal punto di vista sociale, senza dimenticarci che lo stesso sport, la pratica sportiva, è un potentissimo strumento di promozione culturale e sociale. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.